detto due cose, ma soltanto una era vera. L'abbiamo spento dopo 5 minuti. Tu che è un gatto psicologo, quando sei triste piangi con lui. Io che ti amo in incognito, cioè senza dirtelo, dirtelo, dirtelo. Quando chiudiamo gli occhi, ma che colore c'è? Non è né bianco, né nero, né grigio. Io quando chiudo gli occhi ci vedo un po' di te. Te che sei il mio colore preferito. Amarci farà male, male, male, male, male, ma penso che sia normale, male, male, male, male, ma per due come noi. Clorofilla, la mia serotonina tipo, che c'hai un lato B che neanche il mio vinile preferito. E scusami se vado un po' di fretta, quando faccio l'amore più una guerra, perché lasciamo un letto tipo il Vietnam. Oh oh, ti chiamerò con l'anonimo, ma tu il cliente che l'hai chiamato non è al momento raggiungibile. No. Quando chiudiamo gli occhi, ma che colore c'è? Non è né bianco né nero né grigio. Io quando chiudo gli occhi ci vedo un po' di te. Te che sei il mio colore preferito. Amarci farà male, male, male, male, male, ma penso che sia normale, male, male, male, male, ma per due come noi. Andremo a arrivare normale. Siamo stati benissimo, è bellissima, degli occhi stupendi. E poi non ti ricordi di che colore sono. Quando chiudiamo gli occhi, ma che colore c'è? Non è né bianco, né nero, né grigio. Io quando chiudo gli occhi ci vedo un po' di te. Te che sei il mio colore preferito. Amarci farà male, male, male, male, male, ma penso che sia normale, male, male, male, male, ma per due come noi. Ancora un po'